Ho camminato in strade spente, ho visto tutti i volti della gente che mi guardava sempre, chissà che cosa poi diceva nella mente. Restavo seduto in attesa di un ci sarò per sempre. Mi sono rassegnato ad essere me stesso, un uomo prigioniero di uno stesso che sfida il suo essere immenso e festo in un futuro che rimane immerso. Come un cane rabbioso cresco e tu non vuoi ammettere che siamo simili del resto. Immobile allo specchio, di lutto io ti vesto, anche se adesso non ti sento. Ti tu gira intorno, ma oramai è perso. Voglio trovare un senso e smettere di essere me stesso, perché comporta essere diverso in un mondo fatto di maschere e di vetro. In questo mondo buio e tetro non mi nascondo il resto, ma ti chiedo aiuto perché ho imparato troppo ed ho imparato a fare il muto in questo gioco. Non credere sia facile accusare il colpo che colpisce e poi ti lascia morto, dimenticato in un sepolcro senza nome e resto, cancellato come gesso, imprigionato in questo corpo morto, riverso come se fossi inverso. Cosa sarà di me adesso che spengo tutto e dico addio a tutto il resto? Inside the dust, my heart was fast, grown inside the dark. I put my trust in the past, now my life's star. When the enemy, don't forget me, I'm maybe. When you look at me, the angry in my memory, now kill me. Non ho più parole, non ci voglio stare per sentirmi dire lasciami cadere dentro un mare fatto anche di sangue e sale che mi fa pensare a come puoi reagire. Ma non voglio più sentire nulla perché nulla è dentro me, dentro te, anche se metto tutto dentro in questo cuore fatto di ferro e vento. Non piangere se non ti sento, io sono me stesso, una corazza che si spacca come vetro. Dimmi che cos'è un amico, sempre al tuo fianco, ma di fianco c'è un nemico che ti stringe con la farsa del venduto. Piange, cerca un aiuto, spacca te stesso, ti rende fragile piazzando nel tuo cuore cariche, ma resisti, tira sulla testa pensando che passerà via questa tempesta. Ma è tutto inutile perché l'anima è fragile e resto fermo immobile aspettando il tuo cadavere. Grow inside the dust, my heart was fast, grown inside the dark. I put my trust in the past, now my life's star. When the enemy, don't forget me, I'm make me. When you look at me, the angry in my memory, now kill me. Grow inside the dust, my heart was fast, grown inside the dark. I put my trust in the past, now my life's star. When the enemy, don't forget me, I'm make me. When you look at me, the angry in my memory, now kill me.